Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. Per qualche tempo il direttore editoriale si tenne a distanza. Appostato in libreria, ascoltava quel che il ragazzo diceva, studiava il suo modo di muoversi tra gli scaffali e le pile di volumi. Quindi ruppe gli indugi. Attaccò discorso fingendo di prenderlo per un commesso. Dopo qualche scambio di battute, si complimentò con il ragazzo per la sua preparazione. Solitamente ai commessi si poteva domandare al massimo dove trovare un libro, a volte nemmeno quello. Lui ringraziò. «È da molto che lavori qui?» «Non lavoro qui.» «Avrei detto il contrario. Ti vedo spesso parlare con i clienti.» «Non lavoro qui. Ci vengo e basta.» Il direttore editoriale lo osservò. «Ci vieni e basta?» «Sì. E che fai quando non vieni qui?» «Studio. Cioè, dovrei.» «E cosa?» «Economia e commercio.» «Ed è questo che intendi fare? Economia e commercio?» «Non proprio, ma non posso fare altro al momento.» «Immagino che tu scriva, però.» «In che senso?» «Libri tuoi, romanzi.» «No, perché dovrei?» «Non so, tutti scrivono qualcosa prima o poi.» «Non io. Mi interessa leggere.» «Capisco», disse il direttore editoriale. Lo guardò ancora per qualche istante in silenzio, infine lo salutò. Si soffermò a osservarlo anche una volta uscito, da dietro i libri esposti in vetrina, finché rientrò nel negozio e gli domandò: «Che ne diresti di leggere per me?» «Per lavoro, intendo.» «I primi tempi, Tondi, fu pagato poco e senza regolarità, quando capitava, a cottimo, ma non avrebbe potuto chiedere di meglio. Era comunque più di quanto suo padre gli desse per tirare avanti. Inoltre era denaro suo, guadagnato facendo qualcosa che avrebbe fatto comunque e dalla quale finora non aveva ricavato altro che disprezzo. Certo, molti dei manoscritti che gli passava il direttore editoriale erano osceni, roba da togliere la voglia di leggere. Ma nemmeno di questo si lamentava. Un lavoro è un lavoro, non un divertimento, si diceva. Inoltre, perfino nei manoscritti peggiori, riusciva a trovare qualcosa da salvare, qualcosa su cui pensare. Val sempre la pena di leggere, si diceva. Era piacevole individuare i punti deboli di un testo, chiedersi se fosse possibile cavarne qualcosa di decente e in che modo. Come pure gli piaceva parlare di queste e altre cose col direttore editoriale. Gli piaceva la sensazione che qualcuno tenesse in considerazione le sue opinioni tanto da pagarlo. Gli piaceva pensare che un giorno uno di quei manoscritti avrebbe visto le stampe perché lui lo aveva letto e scelto tra altri mille. Sapere che in ognuno di quei romanzi, per lo più pedestri e indegni di pubblicazione, erano riposti i sogni di un aspirante scrittore, lo faceva sentire un dio, o qualcosa di molto simile a un dio. C'è infatti qualcosa di più divino del poter decidere dei sogni altrui? Il fatto di non avere gli stessi sogni, di non ambire minimamente a scrivere, gli infondeva una serenità strana, forse sadica, ma comunque inebriante. Quasi una sorta di rigenerante distacco dalla vita, dall'ansia di dover desiderare comunque qualcosa. Lui non desiderava nulla, a parte leggere. Leggere come leggeva lui, però, senza cercare altro che la lettura, senza aspettarsi risposte o consolazione. Un leggere che non contemplava desideri e speranze, i bisogni che solitamente avvertono le persone. Anche il direttore editoriale trovava rilassante parlare di libri con Tondi. Nel suo ambiente tutti volevano diventare qualcosa. Gli aspiranti scrittori volevano diventare scrittori. Gli scrittori volevano diventare scrittori di successo. Gli scrittori di successo volevano diventare scrittori apprezzati dalla critica. All'interno delle case editrici le dinamiche non erano molto diverse. Ognuno considerava la propria posizione come transitoria, una stazione nella quale attendere l'arrivo del treno giusto, il momento del grande salto. E quando il momento arrivava, il salto non era mai abbastanza grande da farti sentire arrivato in pace con te stesso. Il direttore editoriale sapeva che non c'era scampo. Così funzionava il mondo e bisognava prenderlo com'era, a meno di non ritirarsi in un eremo o di essere Ottavio Tondi. Col tempo si rese conto che non gli interessava affatto che quel ragazzo pescasse un romanzo decente nel pagliaio dei manoscritti inutili. Se lo convocava in casa editrice ogni mese, non era per ascoltare il resoconto delle letture, ma soltanto per sentirlo parlare. Il sentirlo parlare di libri lo rilassava, forse proprio perché non si aspettava alcuna risposta riguardo a quei manoscritti. Era un po' come fumarsi una sigaretta. Un effetto simile Ottavio Tondi dovette farlo anche al giornalista quel mattino di febbraio, visto che è esattamente la sensazione che ancora oggi, a distanza di oltre 20 anni, si prova rileggendo il pezzo uscito sul Presente, che è poi la stessa provata dai lettori di allora. Il fenomeno, in buona parte inspiegabile, fu senza precedenti. Chi mai avrebbe immaginato che si potesse diventare famosi per una ragione tanto insignificante? Non di meno, quando l'imponderato fu sotto gli occhi di tutti, ognuno offrì la sua illuminante e definitiva spiegazione. Ma il successo non si spiega, c'è soltanto da prenderne atto. A dispetto dell'affettazione, della dissimulata erudizione delle risposte, Tondi aveva fatto breccia nel cuore del pubblico, non tanto perché la lettura era la sua ragione di vita, ma per quel suo votarsi alla marginalità della poltrona, al vivere la vita attraverso le parole degli altri. In quel modo di essere così agli antipodi delle ansie correnti, così avulso da qualunque voglia di affermazione, così pago di sé, il pubblico trovava o credeva di trovare un'isola di serenità. Se è vero, ed è vero, che al fondo di ogni successo vi è sempre un equivoco, l'immagine che Tondi dava di sé era per lo più frutto della convinzione che leggere, e più in generale l'essere spettatore, esistano nella passività. Ma non c'è nulla di passivo nella lettura, come non c'era nulla di sereno in quel giovane balzato per caso, anzi per via di uno scherzo, agli onori delle cronache letterarie. Ottavio Tondi non era affatto in pace con se stesso, né lo era col mondo, a cominciare dall'intervista concessa al Presente. Il risultato immediato fu ovviamente un ulteriore incremento di vendite del romanzo La Vergine. Quindi vennero articoli e commenti di varia specie sul personaggio Tondi. Ne ricordo in particolare uno, il cui titolo Manie di piccolezza è di per sé indicativo del clima che si andava imponendo. Leggere divenne improvvisamente di moda, anche se soltanto a parole, già che nei fatti le persone che acquistavano libri rimasero più o meno le stesse. Forse sarebbe più corretto parlare non di moda, bensì di un rinascente orgoglio di chi già leggeva. Ciò che mutò davvero fu l'esistenza di Tondi. Rifiutò di concedere altre interviste, ma questo non placò la curiosità nei suoi confronti, anzi l'aumentò. I libri recanti la fascetta «Letto da Ottavio Tondi» avevano un posto in classifica assicurato e gli editori erano pronti a pagare profumatamente quell'inaspettato Re Mida purché visionasse per loro qualche manoscritto. Venne invitato a partecipare a festival, a trasmissioni radiofoniche e televisive. Lui declinava immancabilmente. Declinò qualunque invito per più di un anno, finché un giorno, dopo insistenze asfissianti, accettò di partecipare a una grande manifestazione organizzata dal Ministero dei Beni Culturali. Alle mie condizioni, però, avvertì Tondi. A qualunque condizione, certamente. Disse che avrebbe letto e basta. Fantastico, esultarono gli organizzatori, immaginando intendesse una lettura pubblica, ad alta voce. Intendeva invece ciò che faceva in casa, leggere tra sé e sé, sprofondato in un divano, circondato da libri. Gli organizzatori non seppero cosa dire. Peraltro, non è che potessero dire granché. L'idea di Tondi divenne chiara agli organizzatori soltanto quando era ormai troppo tardi per annullare l'evento. Parvero delinearsi i presupposti del disastro, ma l'esito si rivelò opposto. Era una follia e fu un successo. I biglietti andarono esauriti settimane prima della serata. Giunto il grande momento, nella sala gremita dell'auditorium non si levò una mosca. In un silenzio tombale, il pubblico osservò per quasi 2 ore Ottavio Tondi fare ciò che aveva promesso di fare, leggere in pubblico come leggeva in privato. Sul palco era stato sistemato il divano di casa sua, il divano dell'appartamento di Via dello Statuto. Accanto a esso una lampada, la sua lampada, e infine libri in quantità accatastati un po' sul divano e un po' in terra sul tavolato. Tondi fece l'ingresso in scena senza dire una parola. Si sedette, afferrò un libro e iniziò a leggere in completo mutismo. I soli rumori che ogni tanto si udirono furono quelli delle pagine sfogliate, qualche colpetto di tosse, sospiri. Tondi non disse nulla, neppure al termine dell'esibizione. Si limitò ad alzarsi e uscire di scena tra scrosci di applausi che durarono molti minuti. La lettura di Tondi occupò le pagine culturali dei giornali per settimane. Nessuno sapeva bene come catalogarla, se ascriverla all'ambito delle performance artistiche o se attenersi al fatto nudo e crudo. I consensi non furono unanimi. Non mancò chi la liquidò come una pagliacciata fra le più ridicole che si fossero mai viste, ma ciò non impedì che lo strano spettacolo venisse replicato. Tondi fu invitato a leggere in pubblico un po' ovunque, lesse nei festival più importanti, a Mantova, a Pordenone e nuovamente a Roma, nella Basilica di Massenzio. Lesse al Salone del Libro, dopodiché a Milano, alla Scala, nell'Arena di Verona e ad Agrigento, nella Valle dei Templi, sempre con lo stesso risultato. Lo stesso successo, la stessa silente ammirazione del pubblico. Per quanto non si trattava neanche di ammirazione, bensì di qualcosa di più prossimo al raccoglimento religioso, al genere di sospensione interiore nel quale la coscienza di un fedele precipita in una chiesa, nell'assistere a una funzione. Ricordo la spiegazione fornita da una donna, una spettatrice, a un giornalista che le chiedeva cosa ci trovasse nel guardare un uomo che legge per i fatti suoi. Non lo so che ci trovo, so soltanto che mi fa stare bene. Anch'io ho assistito a una di queste letture e devo ammettere di non essere rimasto insensibile all'atmosfera che Tondi riusciva a creare. Neppure io saprei definire con esattezza cosa provassi. Le sensazioni erano diverse, contrastanti, non tutte positive, sebbene comunque intense. A tratti provai anche imbarazzo, come ci fosse un che di pornografico nella spettacolarizzazione di un'attività tanto privata. Mi venne da pensare a quando in metropolitana o sull'autobus ci scostavamo infastiditi da chi cercava di sbirciarne il libro che stavamo leggendo, oppure a chi foderava le copertine per nascondere il titolo. In quella circostanza mi resi poi conto che Tondi non era affatto grasso, come aveva scritto Gnoli sul presente. Era appena sovrappeso, come lo sono in tanti in una qualunque società del benessere avanzato. Non di meno il suo corpo comunicava una sensazione di straordinaria obesità. E lui era il primo a dolersene. Nei negozi di abbigliamento i commessi sorridevano quando diceva il numero della taglia. Lo squadravano con compassione, manco fosse una donna matura che mentisse sull'età. Ma quando lo vedevano uscire dal camerino con indosso la 54 che aveva chiesto, perfettamente calzata, non gli restava che sbigottirsi. Vi era in lui qualcosa che lo faceva apparire molto più grasso di quanto fosse in realtà. Qualcosa di indefinibile che andava al di là della semplice stazza, qualcosa che riguardava la persona in generale, una specie di aura che il cognome, evocante una pluralità di curve, fatalmente amplificava. Qualunque azione compisse, anche il semplice camminare, pareva incompatibile con la molle pesantezza dei suoi movimenti. Era come se con quel fisico non potesse concedersi altra attività che lo stare seduto, e infatti, non appena lo vidi sedere sul divano posizionato al centro del palcoscenico, fu come osservare una mutazione. Quasi che le varie parti del corpo si ricomponessero in una nuova sembianza per assolvere alla funzione a esse più congeniale. Un animale restituito al suo habitat e perfettamente mimetizzato fino alla completa sparizione. Questo diventava Tondi su un divano. Un divano. Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.